total silence come crashing in into my little world. Painful to me, pierced right through me. Can't you understand, oh my little girl? Thank you. pressure disappears. Baby, take it over. Everything's so clear. Precious little diamond, I leave it all to you. Precious little diamond, let it come to you. Precious little diamond. 여자 우바너 빠지는 빠지네 덤보 샤샤샤 범인사계 덤보 Se dice così. it long, let more gay there. Holly there, no lady gay lay, no, she's gay there. Holly there, è maliziosa, ma saprà tenere a bada un super momento come te. E poi che avresti di speciale, che in un altro no, non c'è gay there. Holly there, non vedi che lei non ci sta gay there. Holly there, attento lei, lunga la sa lei. Girare in fondo senza avere mai le cose che pretende in fondo. Scusa, in cambio tu che dai? Thank you.

Cause y'all Electric Salsa. Electric Salsa. Oh!